Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Sequestro Calevo, arrestata questa mattina una quarta persona, ma altre sono sotto controllo. Botti di Capodanno, due persone sono morte in campagna, in tutta Italia calano i feriti, ma sono ancora 361. Il Senato americano approva in seduta notturna l'accordo raggiunto in extremis per evitare il fiscal cliff. Pace per il mondo intero, lo chiede il Papa nella prima giornata del 2013. Buona giornata e un buon anno dalla redazione di GR24 e da Enrico Pagliarini. I carabinieri del ROS hanno arrestato una quarta persona implicata nel sequestro dell'imprenditore spezzino Andrea Calevo, liberato ieri, lo ricorderete, con un blitz interforze a Sarzana. 20 anni, albanese, manovale, incensurato. Polizia e carabinieri lo hanno arrestato stamane in un'abitazione di Sarzana, poco distante dalla villa di Pierluigi Destri. Il pregiudicato 70enne piccolo imprenditore nell'edilizia ha ritenuto la mente del sequestro il carceriere di Andrea Calevo. Il procuratore Michele Di Lecce. C'è un quarto giovane albanese che è stato fermato dopo i primi e che riteniamo essere coinvolto almeno nella prima fase delle attività di sequestro del Calevo. Dopo il quarto arresto, quindi, altre persone potrebbero essere fermate nelle prossime ore. Un paio sarebbero già state identificate. Si tratterebbe di altri manovali albanesi che lavoravano per conto di Destri. A lui gli inquirenti erano risaliti sin dai primi giorni del sequestro. Luisa Pellizzari è la dirigente dello SCO della polizia. È stato subito possibile, in stretto giro, con l'aiuto di telecamere e con un'analisi di traffici telefonici, 6 milioni di dati telefonici elaborati, individuare un pregiudicato della zona di Sarzana che da subito si è capito che aveva un ruolo nella vicenda. Intanto Alerici Andrea Calevo ha trascorso la prima notte di nuovo da uomo libero. Festa in paese, fuochi di artificio e lumini per un capodanno molto speciale. Andrea Ferro, Radio 24, il sole 24 ore, Genova. A proposito dei festeggiamenti per il Capodanno, in totale in Italia si contano 2 morti e 361 feriti. Secondo i dati diffusi dalla polizia, il numero dei feriti è in sensibile calo rispetto all'anno scorso, quando il conto aveva toccato i 561. Anche quest'anno i fatti più gravi sono accaduti in Campania. 2 morti e 114 feriti. È sempre più simile a un bollettino di guerra il bilancio anche quest'anno in Campania per i botti di Capodanno. La prima vittima è un ristoratore di 51 anni, Pasquale Zacchia, uccisa da un vero e proprio ordigno rudimentale, un petardo tra i più micidiali che, esplodendo, gli ha procurato gravi ferite al cranio. È avvenuto all'ora di cena a Ponte Latone, un comune del Casertano, all'esterno del ristorante Il Cacciatore, di proprietà dell'imprenditore, nella frazione di Barignano. Zacchia, insieme al figlio di 29 anni, stava testando un fuoco di tipo professionale in vista del veglione. La bomba, secondo quanto accertato dai carabinieri, posizionata in un mortaio, è esplosa prima che l'uomo potesse allontanarsi a una distanza di sicurezza e l'ha ucciso sul colpo e ferito leggermente il figlio. Seconda vittima campana dei botti, il 49enne Antonio Serino, un imprenditore edile originario di Montefusco in provincia di Avellino. L'uomo era con i familiari in una villa di San Martino Sannita in provincia di Benevento, quando un razzo partito inavvertitamente lo ha colpito al volto e lo ha ucciso. Complessivamente in Campania sono 114 feriti di quest'anno, di cui 82 solo nel napoletano, 7 in meno dello scorso Capodanno, 12 feriti nella Salernitano, 9 nel Casertano, 3 ad Avellino e provincia, un solo ferito nella provincia di Benevento. Paolo Picone, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli. A proposito dei feriti, anche a Napoli la situazione è in miglioramento come nel resto d'Italia, come conferma la dottoressa Fiorella Paladino, responsabile del pronto soccorso all'ospedale Cardinale Darelli, intervistata da Gigi Donelli. È decisamente in miglioramento, anche se abbiamo avuto un certo numero di pazienti che sono venuti per lesioni da fuochi d'artificio, qualcuno in gravi condizioni, purtroppo qualche giovane ha perso l'occhio, molte ferite del volto e quindi molto spesso coinvolto l'occhio. Diciamo che di questi feriti di cui le ho parlato, circa il 50% sono ragazzini, sono minorenni. Sicuramente la campagna di informazione è fortissima. Le scuole, ma anche il personale degli ospedali che vanno nelle scuole a mostrare filmati, a dimostrare la pericolosità dei botti. Sicuramente comunque il numero di feriti si sta riducendo di anno in anno. Devo dire che in alcune zone della città, sia ieri sera tardi quando tornavo a casa che stamattina prima di venire al lavoro, ho visto una nettissima riduzione dei fuochi. Forse anche la crisi economica, ma io mi auguro soprattutto che stia cambiando la cultura. Circa 200.000 botti illegali, oltre 6 tonnellate, sono stati sequestrati ieri dalla Guardia di Finanza in alcuni comuni del Casertano. Nel corso dell'operazione una persona è stata arrestata e 25 sono state denunciate. Un vasto incendio è scoppiato questa notte in un deposito alimentare di 30.000 metri quadrati a Capena, alle porte di Roma. Sul posto sono intervenute 10 squadre dei vigili del fuoco che sono tuttora al lavoro per domare le fiamme. Una coppia di anziani è stata trovata morta questa mattina in un casolare di montagna dove erano andati per trascorrere il capodanno a Dior di Dierico in Friuli Venezia Giulia. A causare la morte sarebbero state esalazioni di monossido di carbonio. Ed è stata probabilmente una fuga di gas a provocare l'esplosione in una casa nel quartiere Arenella di Napoli. Nello scoppio è morto un uomo di 81 anni. Ora cambiamo argomento, andiamo negli Stati Uniti, parliamo dell'accordo raggiunto a Washington per evitare l'ormai famoso fiscal cliff. Il Senato ha votato alle 2 di notte, erano le 8 in Italia. L'America e se per questo l'economia internazionale hanno superato il pericolo del precipizio al di là del fiscal cliff, ha votato il Senato americano a favore di un compromesso con una maggioranza schiacciante, 89 voti favorevoli, 8 voti contrari. Si è fatta storia in America sotto molti punti di vista, intanto perché c'è stato un accordo bipartitico, è la prima volta in molti anni che questo succede, e poi perché per la prima volta comunque sia si aumentano le tasse in questo paese in quasi 20 anni. L'accordo è stato di un aumento dell'aliquota al 39% per tutti i redditi superiori ai $400.000 per i contribuenti individuali e ai $450.000 per le coppie. Ci sarà un aumento dal 35 al 40% della tassa di successione. Queste sono le concessioni dei democratici ai repubblicani. In cambio i democratici hanno ottenuto un prolungamento dei sussidi alla disoccupazione che sarebbero scaduti in questi giorni e che avrebbero colpito 3 milioni di americani. Il progetto di legge passa ora alla Camera, dovrebbe essere approvato entro mezzogiorno. Mario Platero, Radio 24, Il Sole 24 Ore, New York. Almeno 60 persone sono morte ad Abidjan, la principale città della Costa d'Avorio, travolta in una calca durante un raduno per assistere ai fuochi d'artificio. I feriti sono oltre 200. L'aeroporto di Aleppo in Siria è stato chiuso dopo aver subito una serie di attacchi da parte dei ribelli che controllano gran parte della regione e diversi quartieri della città. Le autorità sostengono invece che la chiusura sia dovuta a lavori di manutenzione. Il Pakistan ha confermato di aver scarcerato 8 importanti talebani afghani, come richiesto dal governo di Kabul nell'ambito del processo di riconciliazione con i fondamentalisti. Finora il Pakistan ha liberato 26 ex prigionieri talebani su richiesta del Consiglio di Pace afghano. In una città vicino a Peshawar, in Pakistan, uomini armati a bordo di una motocicletta hanno sparato, uccidendoli, a 6 dipendenti di una ONG locale. 5 delle vittime sono donne. Il Papa chiede pace per tutto il mondo, l'ha fatto nella messa di Capodanno, celebrata questa mattina in San Pietro. Oggi, lo ricordiamo, la Chiesa Cattolica ricorda e celebra la Giornata Mondiale della Pace. La Vergine Maria, che oggi veneriamo con il titolo di Madre di Dio, ci aiuti a contemplare il volto di Gesù, Principe della Pace, ci sostenga e ci accompagni in questo nuovo anno, ottenga per noi e per il mondo intero il dono della pace. Ed ora torniamo a parlare del discorso di Capodanno del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, l'ultimo del suo settennato. Giorgio Napolitano si congeda dagli italiani. Ho assolto il mio compito con scrupolo, dedizione e rigore, dice nell'ultimo discorso alla nazione. Tocca tutti i problemi che gli italiani dovranno affrontare nel nuovo anno il Presidente della Repubblica, primo tra tutti la crisi, e chiede tagli più equi. Dobbiamo parlare non più di disagio sociale, ma come in altri momenti storici di una vera e propria questione sociale. È dunque entro questi limiti che si può agire, definendo in modo meno indiscriminato e automatico sia gli inasprimenti fiscali sia i tagli alla spesa pubblica. Napolitano giustifica l'indignazione dei giovani ai quali chiede di reagire, ma guai a disprezzare la politica, anche se deve essere con rispetto e qualità morale. Non manca allora un monito riguardo alla prossima campagna elettorale. Mi attendo che ci sia senso del limite e della misura nei confronti e nelle polemiche, evitando contrapposizioni distruttive e reciproche invettive. Sulla candidatura di Mario Monti, Napolitano spiega che può patrocinare una nuova entità politica, certo che il governo garantirà il regolare svolgimento delle elezioni. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Chissà se per omaggio alla fine del suo settennato, se davvero sinceri, i commenti al discorso del Presidente della Repubblica sono tutti di apprezzamento, o quasi. Un discorso di altissima levatura istituzionale, politicamente incisivo, sull'analisi dei problemi del Paese, secondo il Presidente del Senato Schifani. Al di sopra delle parti, fa sapere Fabrizio Cicchitto, capogruppo del PDL alla Camera. Addirittura un grazie, che arriva al capo dello Stato da Maurizio Gasparri, per aver difeso la buona politica. Più nel merito entrano gli esponenti del centro-sinistra. Ci indica la strada, afferma il segretario del PD. La questione sociale evocata da Napolitano deve essere al centro delle preoccupazioni, scrive Bersani, sostenuto da tutto il suo partito, Letta e Finocchiaro in prima fila. E poi Monti, che telefona al presidente per manifestargli tutto il suo apprezzamento per un messaggio che definisce forte. E sì che è proprio su Monti che Napolitano si attira le critiche più aspre. Indegno spot per il premier, accusano Calderoli e la Santanchè. Fa il maestrino e tace sui disastri del governo Monti, in calza Maroni. È un Ponzio Pilato, sentenzia Di Pietro. E poi il commento di Berlusconi. Mi riconosco nelle sue parole. Solo poche ore prima il Cavaliere aveva ipotizzato un ruolo di Napolitano nella caduta del suo governo. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il punto di Stefano Folli. A differenza di quanto pensano i leghisti e Di Pietro, il discorso di Giorgio Napolitano non è stato uno spot elettorale a favore di Monti. Al contrario, ci sono state parole di rispetto verso la scelta politica del Premier, ma anche una netta distinzione di ruoli. A Monti il capo dello Stato ha anche ricordato fra le righe quali siano i doveri e i limiti di un Presidente del Consiglio dimissionario che resta in carica, come appunto il caso, per l'ordinaria amministrazione in periodo elettorale. In realtà ieri sera dal Quirinale abbiamo ascoltato una sorta di testamento politico a conclusione del settennato, un messaggio rigoroso e asciutto, con tre punti chiari. Primo, il richiamo alla questione sociale, centrale in questa fase di grave recessione. Secondo, la messa in guardia che il destino dell'Italia è in Europa. Ci si salva con l'Europa e mai contro l'Europa. E questo è un messaggio rivolto alle forze politiche di oggi e di domani. Terzo, la politica deve servire l'interesse generale, perché in questo trova o ritrova la sua nobiltà e individua anche il vero argomento per battere l'offensiva dei nemici della democrazia. E la lunga citazione di Benedetto Croce, che ha chiuso l'intervento, dice molto sull'Italia a cui guarda Napolitano, a conclusione di un mandato che è stato davvero a servizio delle istituzioni. E anche Beppe Grillo ha concluso l'anno con un lungo videomessaggio pubblicato sul suo sito internet e anche su YouTube. Eccone un breve assaggio. Di felice ci sarà la dipartita di questa gente che non se ne vuole andare. È finito un anno catastrofico per Igor Montis. Si ripropongono tutti quelli che hanno disintegrato questo paese. Daffini, Casini, Bersani, Berlusconi. Ma veramente è incredibile. È incredibile, con una faia sembra che viviamo in due piani paralleli, il loro e il nostro. Questa gente deve andare via con le buone, col Movimento 5 Stelle, o se no arrivano delle albe dorate. Io ve lo dico, noi siamo la vostra assicurazione sulla vita. E avete disintegrato questo paese, non c'è più una piccola media impresa che sta in piedi. La nostra industria, no? Abbiamo perso il meccanico, il tessile, abbiamo perso la chimica, abbiamo perso la nautica, abbiamo perso l'informatica, non c'è più nulla. Quindi questa abbiamo bisogno di un pensiero nuovo, ma bisogna che andiate via tutti. E così concludiamo questa edizione di GR24, la prima delle 13 del 2013, sono le 13:15 in questo momento, edizione curata e condotta da Enrico Paglierini, che assieme alla redazione vi auguro un buon anno. Grazie anche a Filippo Aureggi, che si è occupato della parte tecnica. GR24 torna alle 16. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.